24 mattino di Alessandro Milan. 7:22 minuti in questo istante, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 con il nostro Paolo Corleoni anche in regia. E con il sondaggio di oggi alle 8:30 di cui parleremo di politica. Allora, questa proposta che si concretizza da parte della Lega, che fa una proposta di legge popolare per spostare alcuni ministeri al nord. Che ne pensate? Siete d'accordo? Di questo parleremo, votate su radio24.it. Ne parleremo alle 8:30, come detto, ed ora ci tuffiamo nella lettura dei giornali. In primo piano. Mercoledì 8 giugno, una rapida carrellata delle aperture. Il fisco sorveglia le spese, così apre il Sole 24 Ore. Fabbricati, terreni, golf e auto nella lista dei controlli. La questione economica c'è anche in apertura di Repubblica. L'Unione Europea, Italia, niente taglia le tasse. E anche la stampa, Unione Europea, no al taglio delle tasse. C'è chi sceglie il nucleare, come il Corriere della Sera, o meglio, i referendum. La consulta, si voti sul nucleare. Anche per il Fatto Quotidiano, riscrive Adriano Celentano. Ragazzi, è questione di vita o di morte, questo è il titolo. L'unità a votar, fa il verso al celebre film Avatar, a votar il 12-13 giugno. Mentre il manifesto, referendum sul nucleare, la consulta ha deciso, via libera. Per il giornale invece l'apertura, la vera storia della TV anti-Cav dopo la fine di Anno Zero. E la vicenda Santoro anche su Libero, la ragnatela di De Benedetti, il grande burattinaio. L'apertura sui ministeri la troviamo sul Messaggero, ministeri rivolta anti-Lega. Fini, spostarli al nord vuol dire cancellare il federalismo. Allora, queste alcune aperture, c'è spazio forse per una sola segnalazione. Ragazzi, ma che segnalazione! La troviamo sul Corriere della Sera, pagina 24... E su Libero un'intera pagina, pagina 25, peccato non esserci stato a vedere. Tra Bobo Vieri e Corona finisce a pugni al party nell'hotel a 5 stelle. Così titola il Corriere, mentre Libero, che fa una cronaca più dettagliata, per un pugno di foto. Taci Corona che andavi con Lele Mora. E tra Vieri e Fabrizio la scazzottata all'hotel di lusso. Alessandra Menzani su Libero racconta anche lei purtroppo di questa epica scena solamente raccontata di tanti testimoni. Era la festa sorpresa di compleanno di una showgirl, Claudia Galanti, che ha partecipato all'Isola dei Famosi. Allora il passo indietro da fare è che Vieri era arrabbiato con Corona perché era stato pizzicato con qualche foto con Sara Tommasi, che Corona ha bellamente e ovviamente pubblicato sul suo nuovo giornale, quindi già gli animi erano tesi quando si sono visti Bobo Vieri a Corona. Quando ti becco da solo ti gonfio. La risposta di Corona: fallo ora. No, ora no, sfugge Bobo. Ma Corona continua nella provocazione ed ecco la frase che fa scatenare il putiferio. Vai a cagare, Vieri a Corona. Torna a fare i... e non dico cosa, all'elemora. Al che Corona parte con un destro, Vieri si aggrappa al collo, cadono tutti e due, guardie del corpo, rissa, scazzottata, Belen che se ne va via urlando basta, andando via con tutta la sua famiglia, e pare una ferita senza denunce, per carità, si regolano così i conti tra questi soggetti, e pare con una faccia gonfia per Corona al termine di questa scazzottata. In primo piano. E allora eccoci alle 7:34 minuti a cominciare dalla politica. Beh, certo, ieri, come ci aveva anticipato l'ex presidente della Corte Costituzionale ai nostri microfoni, Valerio Nida, la Corte Costituzionale ha dato il via libera definitivo, l'ammissibilità al referendum anche sul nucleare. Dunque rimangono e saranno 4 i quesiti referendari il 12 e 13 giugno su cui sono chiamati a pronunciarsi gli italiani. Tra l'altro vi voglio segnalare che da oggi il Sole 24 Ore inizia, come abbiamo anticipato ieri, una serie di pagine didascali che anche con opinioni politiche a confronto. Oggi si confrontano Rutelli e Urso proprio sul tema del nucleare. Trovate a pagina 8, Atomo, in gioco i paletti alle scelte del governo. Cosa si prevede con il quesito referendario? Cosa succede se vincono i sì? Cosa succede se vincono i no? O se anche c'è l'astensione, la posizione dei partiti, eccetera. Beh, ci sono poi sui giornali vari endorsement, dopo i tanti che si sono pronunciati dopo l'ammissibilità dei referendum per il sì. C'è da registrare anche ora un appello di alcuni scienziati che il Corriere della Sera mette a pagina 3. Gli scienziati per il no è un voto ideologico. Da Edoardo Boncinelli a Carlo Stagnaro, Umberto Tirelli, Renato Angelo Ricci hanno fatto un appello chiamato un appello alla ragione da parte di intellettuali e scienziati schierati sul fronte del no. Dunque, sul no al referendum vuol dire a favore del nucleare. Riteniamo che un referendum come quello indetto in merito agli impianti nucleari non abbia fondamento né tecnico né sociale e sia di dubbia interpretazione giuridica, si legge in questo appello. Mentre gli endorsement dall'altra parte, beh, intanto torna a scrivere Adriano Celentano, che insomma ha una pulsione veramente alla penna, alle apparizioni anche televisive, alle interviste che non si vedevano da decenni. Ragazzi, è questione di vita o di morte, questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, che dedica ancora pagina 2 e 3 a una lunga lettera di Adriano Celentano, che vabbè parla della Santanchè, della sua apparizione ad anno zero, di Berlusconi che secondo lui non sa più come fare, ce la sta mettendo tutta per far cadere il governo ma non ce la fa. Di Santoro cacciato dalla RAI, ma poi insomma la lunga lettera finale si conclude così. La cosa importante è che tutti vadano a votare, scrive Celentano, e scrivano sul foglio elettorale sì per abrogare il nucleare, sì per abrogare la privatizzazione dell'acqua, sì per abrogare il legittimo impedimento. Le date 12-13 giugno saranno ricordate come giorni della riscossa e della purezza contro le contaminazioni malvagie delle scorie radioattive. Sarà proprio in quei giorni che dalla strana percentuale del 50% più 1 nascerà l'inizio di una sorgente dalla quale sgorgeranno i primi zampilli di energia pura. Così Adriano Celentano sul Fatto Quotidiano. Mentre, visto che ieri citavo Vasco Rossi come rockstar che è a favore del nucleare, per par condicio oggi vi offro un'altra star della musica, Jovanotti, che invece dice, non potendo andare a votare perché si troverà a Nashville nel Tennessee durante il weekend per esibirsi in una kermesse canora, allora dice, beh, faccio un appello, se c'è uno, un patto, qualcuno che non voleva andare a votare ma andrà al posto mio perché io non posso, gli offro una pizza. E Jovanotti dice deve andare a votare però contro, cioè per il sì, quindi contro il nucleare ai referendum. Questo su Twitter è l'appello di Jovanotti. Mentre Libero fa notare a pagina, in prima pagina e poi a pagina 6 con Elisa Calessi che per quel che riguarda il referendum sull'acqua, Bersani, il Partito Democratico, ha cambiato idea. Solo 6 mesi fa Bersani voleva dare l'acqua ai privati. Il Libero rispolvera questa proposta di legge depositata alla Camera, primo firmatario Bersani e poi anche Dario Franceschini, cioè il capogruppo, insomma tutti i maggiorenti del Partito Democratico, che sostanzialmente proponeva la privatizzazione, l'apertura anche ai privati per la gestione dei servizi pubblici dell'acqua. L'acqua è un bene pubblico che va tutelato. Come si può stabilire che gli enti locali affidino la gestione dell'acqua a soggetti privati, pubblici e misti, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità? Avete capito bene, così inizia l'articolo di Elisa Calessi. Questa era la proposta del Partito Democratico in una disposizione di legge, la legge numero 3865, primo firmatario Bersani, depositata alla Camera. L'altro tema politico del giorno è quello dei ministeri, ce ne occupiamo anche noi nel nostro sondaggio. Allora, il ministro Calderoli ha depositato una richiesta per fare una proposta di legge popolare, inizierà la raccolta di firme, ce ne vogliono 50.000 da Pontida, dove il 19 giugno la Lega si ritrova per la kermesse annuale. Per avere che cosa? Una territorializzazione dei ministeri. Così si legge a pagina 16 del Sole 24 Ore quella che è l'ipotesi del decreto addirittura di Palazzo Chigi, che domani dovrà forse valutare questo tema. domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri, scrive Barbara Fiammeri, arriverà appunto un decreto legge che darà il via libera all'apertura di questi uffici di rappresentanza altamente operativi di alcuni ministeri al nord. Sta di fatto che si è scatenato un putiferio politico, per esempio il sindaco Alemanno torna in un'intervista al Messaggero a dire il premier chiarisca o Calderoli si deve dimettere. La Padania titola in prima pagina decentramento, la parola al popolo. Il Sole 24 Ore invece fa una interessante analisi che troviamo a pagina 16, che è questa. Già nel settentrione, già al nord, lavorano il 25% dei ministeriali. Nicoletta Cottone ci fa sapere che un quarto dei dipendenti ministeriali già lavora al nord, sono per l'esattezza 44.090, che già lavorano nelle province autonome dell'Italia settentrionale e nelle regioni, sono il 25,2% del totale dei ministeriali, quindi insomma, è un dato numerico interessante. E chi fa la parte da leone? Proprio la Lombardia, dove lavorano già 10.346 ministeriali, il 5,9% del totale, davanti al Piemonte che ha oltre 7.000 dipendenti, soprattutto nel Ministero della Giustizia e degli Interni. E quindi nel settentrione già lavorano il 25% dei ministeriali italiani. Ecco, questo è un dato su cui potremo anche discutere, ovviamente, come detto, da Alemanno, ma anche dal PD, con Zingaretti, presidente della provincia di Roma, la Polverini, presidente della regione Lazio. Insomma, l'idea è quella di dire no, sembra un po' una proposta che la Lega in realtà vuole buttare sul tavolo, e queste sono un po' i retroscena politici che troviamo sui giornali, come per esempio Marco Cremonesi sul Corriere a pagina 9. La Lega vuole offrire questo proprio perché si avvicina a Pontida. Scrive Marco Cremonesi: il fatto che il Carroccio sente il fiato sul collo, teme che il suo elettorato abbia perso il fideismo che ha contrassegnato gli ultimi anni, c'è chi accusa la crisi economica, chi la gestione istituzionale, l'emergenza immigrati, e quindi pare che la Lega voglia in qualche modo offrire al proprio popolo, al proprio elettorato, un qualcosa che possa essere gradito appunto all'elettorato della Lega. Lo stesso Ugo Magri a pagina 2 della Stampa, nel retroscena politico, racconta di questa Lega un po' impotente che continua a dire a Berlusconi con Bossi abbassa le tasse, con Tremonti si trovi una quadra per abbassare le tasse, ma sta di fatto che siccome su questo, sulla riforma fiscale, sull'abbassare le tasse, dunque sul riagganciare tutto il ceto produttivo italiano, si fa fatica a trovare questa famosa quadra, ecco allora l'analisi di molti giornali è proprio questo, che il malessere della Lega si tramuta così, un'iniziativa popolare che certo al popolo dei leghisti, all'elettorato leghista può essere venduta come una questione, una conquista politica. Anche per Repubblica, Francesco Bene, a retroscena, ecco il malessere della Lega, ed è per questo che viene proposta questa vicenda dei ministeri, cosa che Repubblica definisce la kafkiana duplicazione dei ministeri al nord. L'accordo c'è, rivela Nicolò Ghedini, e riguarda solo l'apertura di uffici di rappresentanza nei ministeri a Milano. I leghisti lo sanno benissimo anche loro, infatti ad Arcore ne abbiamo parlato con assoluta tranquillità. Staremo a vedere e ne parleremo alle 8.30. L'altro tema che è diventato un tema politico, faccio un rapido accenno perché ci sono alcuni articoli interessanti e perché comunque Oscar Giannino ne parlerà alle 8.30, alle 9, in 9 in punto, è la vicenda Santoro. Ho sulla vicenda Santoro da segnalare alcuni articoli. Repubblica, l'autodifesa del direttore generale della RAI, lei nel consiglio di amministrazione ha detto ho evitato un danno all'azienda perché la Cassazione poteva confermare la decisione che impone alla RAI di mandare in onda Santoro, creando un precedente, togliendo la possibilità di scegliere palinsesti e programmi ai direttori e ai manager. Ma Repubblica ha anche un altro retroscena che sarebbe legata al fatto che Santoro va via. Il governo ora pensa ad aumentare il canone della RAI. Carmelo Lo Papa, pagina 11. Siccome con la perdita di Santoro si perdono anche tanti incassi pubblicitari, l'idea che si profilerà alla fine di quest'anno, secondo Repubblica, è un aumento corposo, non di 1,50 euro come nel 2011, un aumento non giudicato sufficiente, ma un aumento corposo del canone. Pare che il ministro Romani lo abbia promesso in una telefonata al direttore generale della RAI, lei. Sulla vicenda invece dove andrà Santoro, forse alla 7, forse no, e sulla vicenda la 7 si concentrano in apertura Il Giornale, ma anche Il Foglio, con due articoli interessanti di dove va la 7. Ebbene, ecco Il Giornale, la vera storia della TV anti-cav. La 7 nelle mani di De Benedetti? Non è detto. A puntare sulla nuova Tele Kabul è il gruppo del Corriere della Sera. Nicola Porro firma questo editoriale in prima pagina a dire in realtà è il Corriere della Sera che probabilmente punterà alla 7. E così sentite anche Il Foglio, altro che regime, così nel tramestio della 7 accanto a Santoro spunta lo zampino del Corriere. Si legge in prima pagina del Foglio: la 7 gongola, la 7 spopola, ma la 7 di chi è? Della Telecom. E di chi è la Telecom? Di Banca Intesa, Mediobanca, Generali. E chi sono Banca Intesa, Mediobanca, Generali? Editori del Corriere della Sera. È dunque possibile che Michele Santoro, nuovo quasi acquisto della 7, che ieri ha minacciato di tornare a collaborare in Rai, raggiunga Mentana in una TV targata Corriere della Sera RCS e non in una TV targata Carlo De Benedetti, concorrente di RCS. Insomma, strategie anche economico-finanziarie nei mezzi di comunicazione. A proposito di questo, ormai ufficiale, l'abbiamo detto da qualche giorno, Vittorio Feltri lascia Libero, esperienza brevissima, è tornato a Libero con Belpietro, ma pare abbia detto un'auto non si può guidare in due. Ci trovavamo io e Belpietro in quelle condizioni di quei due gentiluomini che davanti a una porta aperta fanno a gara su chi non debba entrare per primo. Prego, passi pure, ci mancherebbe altro, dopo di lei, eccetera. E intanto viene notte. Feltri se ne va, pare che torni al Giornale. In primo piano. Il Sole 24 Ore, come detto, apre sul fisco, ma prima vorrei dare un risalto invece a che cosa? La notizia che anche sugli altri giornali è molto ampliata, vale a dire il monito europeo all'Italia, priorità allo sviluppo e al taglio del debito. L'Unione Europea, racconta Dino Pesole a pagina 5, ha detto che il piano di consolidamento dei conti pubblici presentato dall'Italia fino al 2014 è credibile fino al 2012 e dunque servono riforme strutturali. Questo si legge, occorre assicurare la crescita dei salari che rifletta meglio gli sviluppi della produttività. Più in generale, insomma, la Commissione europea ritiene necessario che il Paese, l'Italia, metta al più presto interventi strutturali per affrontare le debolezze strutturali dell'economia in cantiere. Ecco, e poi la questione del fisco. Può darsi, racconta Gianni Trovati a pagina 3, che cari italiani abbiate già ricevuto o riceverete nei prossimi giorni una lettera che inizia così: gentile contribuente. Solo che la lettera viene dall'Agenzia delle Entrate. Il fisco che cosa fa? In previsione dell'ingresso a pieno regime del nuovo redditometro, sta cominciando a mandare delle lettere, che vogliono spingere così all'adeguamento gentile, all'adeguamento soft da parte del contribuente, cioè delle lettere che dicono più o meno così: gentile contribuente, ci risulta che lei nel 2009 ha speso tanto, troppo rispetto al reddito dichiarato al fisco per quell'anno. Come ha fatto? E questo è il succo della lettera. Per carità, uno potrebbe anche sobbalzare sulla sedia, dice: ma che vogliono questi, eccetera. È la previsione del nuovo redditometro che entrerà in vigore e insomma che metterà sotto esame entrate e uscite per cercare di capire quelle spese anomale in base al reddito che uno ha. Si controlleranno fabbricati, terreni, golf, auto. Se uno ha acquistato delle cose che in base al reddito dichiarato sono poco plausibili, ecco che verranno a suo tempo controllate. Per il momento l'Agenzia delle Entrate, caro contribuente, giustifica le spese, comincia a mandare delle lettere a centinaia di migliaia di persone fisiche per cercare di dissuadere, cominciare a mettere in guardia, cominciare a dire: guarda che tra poco partiamo coi controlli. Tra l'altro, a proposito di fisco, voglio segnalare un interessante articolo del Corriere della Sera di Mario Sensini a pagina 5 sull'addizionale IRPEF, perché il federalismo prevede la possibilità, già per chi non ha alzato l'addizionale IRPEF dei comuni fino ad ora, di modificarla, una finestra spalancata con uno dei decreti di attuazione del federalismo che prevede fino al prossimo 30 giugno, da ieri, la possibilità di chi non ha superato l'aliquota dello 0,4% di addizionale IRPEF di aumentare la sovrattassa già quest'anno di un massimo dello 0,2%. E allora ci sono una serie di comuni che, siccome far cassa sui cittadini con anche i tagli che ci sono stati è la cosa più comoda, quei comuni che magari hanno tenuto l'addizionale IRPEF bassa fino ad ora dicono: beh, ma perché non approfittarne? Eccoli qui i comuni: l'addizionale IRPEF tenta i sindaci di Agrigento, Asti, Brescia, Como, Foggia, Lecco, Nuoro, Perugia. Ma a Empoli già è stata portata dallo 0,3 allo 0,4%, a Imola dallo 0,2 allo 0,4%, ad Avezzano, Mandello dell'Ario in provincia di Como, a Venezia, finora risparmiata dall'addizionale, arriverà allo 0,2%, probabilmente anche insieme alla tassa sul turismo dei 3 euro al giorno, alla quale pensano anche Alghero, Imperia, Agrigento, Rimini, Pisa, Firenze, Porto Azzurro. A Villapiana è già scattata in Calabria la tassa sul turismo. A Milano il neosindaco Pisapia per ora non si sbilancia. Altri neoeletti scongiurano e escludono categoricamente l'aumento dell'addizionale IRPEF. Staremo a vedere. Certo, il federalismo prevede anche questo, la possibilità di adeguarla per chi è rimasto sotto finora, e molti comuni già lo stanno facendo. Ho che dire del calcio scommesse. Dico solo che ci sono tante novità, pare allargarsi lo scandalo, pare truccate le partite in A, col PM che dice è solo una sensazione, ma pare che a truccare le partite siano state le società stesse in accordo. Sarebbe un'ipotesi clamorosa, veramente un terremoto del calcio. Spunta il nome di Bobo Vieri, non per la scazzottata con Corona, giornata pessima per Bobo Vieri, in una intercettazione spunta anche il nome, o meglio il nome, Fiorentina-Roma finirà con tanti gol, lo ha detto il capitano della giallorossa. Il capitano della giallorossa è Francesco Totti, non viene citato così esplicitamente, e poi magari è una millanteria, però il nome di Francesco Totti finisce nel calderone delle polemiche. Infine voglio citare: se, cari cittadini italiani, siete finiti in uno di quegli ingorghi delle poste da 5 giorni, andate alle poste, fate delle file chilometriche, perché c'è un problema da 5 giorni legato al software che sta paralizzando con lunghe code le poste. Ebbene, sappiate che l'amministratore delegato Sarmi chiederemo i danni all'IBM. Oggi, intervistato da Repubblica, pagina 23, dice: il 1 giugno si è verificato un guasto nel sistema operativo, le file però non sono chilometriche, se stiamo ai tempi medi di attesa non parliamo di ore ma di 15 minuti nei giorni normali e di 30 da quando si è verificato questo guasto, questi tempi medi. Lo risolveremo? Beh, l'IBM, che ha il problema del controllo del software, ci ha messo a disposizione 30 cervelli, ma tra la California e il Canada altri 100 stanno lavorando per noi. I 130 cervelli ci hanno appena fornito nuovi elementi, pare che siano risolutivi, ma aspettiamo i fatti. Chiederete risarcimenti all'IBM? Stiamo valutando la possibilità. E riguardo ai clienti, domani si apre il tavolo di conciliazione con i consumatori, valuteremo caso per caso. Che cosa vuol dire? Che se l'utente ha aspettato ore per pagare una bolletta che scade tra 15 giorni, si può sicuramente parlare di disagio, ma sul risarcimento del danno si può discutere. Questo l'amministratore delegato delle poste, chissà se oggi, da oggi, sarà tutto regolare. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare la dottoressa Paola Testori Coggi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. È il direttore generale per la salute e consumatori presso la Commissione europea. Parliamo di questo batterio killer. Intanto le chiedo, ci dia qualche numero su com'è la situazione in Europa, contagi e anche purtroppo morti. I numeri purtroppo continuano a cambiare, ma oggi siamo a circa 1800 persone che hanno contratto questa infezione, di cui 700 che hanno la sindrome emolitico urinaria, che questa sindrome è molto grave, e fino a ieri sera avevamo 24 morti. 24 morti. Senta, la situazione è gestita bene dalla Germania? Perché mi sembra che i dubbi siano su quello. La situazione è gestita nei limiti del possibile, non si può dire bene o male. È chiaro che con un batterio di questo genere, che diciamo si è trovato in questa zona geografica in moltissime zone, perché si è trovato nei ristoranti, cioè si è trovato un po' dappertutto, perché le persone che hanno contratto l'infezione vengono da diversi posti di questa zona. La Germania sta facendo una indagine su due fronti. La prima è l'indagine epidemiologica, cioè a seconda di dove le persone hanno sostato, hanno mangiato, cercano di trovare dei luoghi comuni. E la seconda è l'indagine batteriologica. Sul primo fronte ci sono alcune indicazioni, per esempio quella dello stabilimento che produce questi germogli di soia è un risultato epidemiologico, ma è soltanto quando noi troviamo un risultato batteriologico, quindi abbiamo trovato il batterio, che si può dire con certezza, e su questo secondo fronte non ci sono ancora risultati. Anche perché su questo, dottoressa, abbiamo sentito un po' prima i cetrioli in Spagna, i germogli di soia, il salame di cervo, se ne è sentito un po' di tutto, con tanto di europarlamentari con i cetrioli esibiti in Europarlamento, come dire, non c'entrano i cetrioli. C'è un po' di confusione, forse di panico, di allarmismo, c'è, lei lo nota? L'allarmismo c'è, ma come dicevo, le autorità tedesche purtroppo appena hanno un'indicazione, come dicevo, epidemiologica, informano il pubblico e da lì nasce il panico. Ma è soltanto quando noi sapremo con certezza, perché si è trovato il batterio in un alimento, potremo dire quella è la fonte. E fino adesso non c'è. Le ricordo che in altri casi passati, Stati Uniti nel 2006 o Giappone nel 96, ci sono messi mesi per trovare il batterio. Ci dica qualcosa sull'Italia, nel senso che la gente ci ascolta, ovviamente in Italia ci chiede, mi telefonano, bisogna mangiare la frutta, si può mangiare la frutta, la verdura, lavarla, prendere quella che viene dalla Spagna, no, quella che viene dalla Germania, sì. Ma in Italia non c'è alcun rischio, perché fino adesso tutte le persone malate o che hanno contratto l'infezione sono passate per la zona di Amburgo, quindi in Italia non c'è pericolo. In Italia valgono le regole di igiene di base, quelle che valgono sempre, che sono: si deve mangiare la frutta e la verdura perché fanno bene, si devono mangiare, chiaramente bisogna lavarle e bisogna lavarsi le mani, queste sono le regole di igiene di base, ma per qualsiasi tipo di infezione, salmonella, escherichia coli, sì, certo, qualsiasi. Voglio dire, lei ci tiene a precisare che non è, come qualche giornale anche dice, una ennesima bufala, cioè la questione è comunque seria dal punto di vista sanitario. La questione è seria, ricordiamo che di infezioni di Escherichia coli ce ne sono in Europa, ce ne sono qualche centinaia ogni anno. Purtroppo questo ceppo è un ceppo molto raro, non è un ceppo mutante, ma è un ceppo raro, che è un ceppo molto aggressivo. Però quando noi diciamo mangiamo, i microbi ci sono. Questo è uno di quelli che nella nostra, da piccolini, si diceva state attenti ai microbi. Ecco, questo è un microbo. Ed è per quello che bisogna rispettare le regole di igiene di base. Un'ultima domanda, visto che lei tutela anche la salute dei consumatori, pensa che i consumatori, visto che va tanto di moda in Italia, per esempio la class action, possano in qualche modo rivalersi per qualche allarme sbagliato, non so, le accuse nei confronti di qualche prodotto oppure no? Magari, no. Non credo. Quello che sicuramente succederà, quando si saprà qual è la fonte, ci saranno i danni da pagare a queste, perché ricordiamo, alle persone morte, ci sono 24 persone morte o i malati gravi che dovranno avere, magari avranno delle conseguenze diciamo per tutta la vita, perché qui si rischia anche di non avere, di avere i reni che non funzionano più, quindi su queste persone chiaramente bisognerà intervenire per dare gli indennizi. In ogni caso, lei ci ha detto la regione di Amburgo è quella diciamo più da tenere sotto controllo. È quella con i due o tre lander, perché in Germania ci sono i lander, sono i quattro lander, diciamo 4-5 lander del nord della Germania. Perché, per cui chi andasse lì che cosa deve seguire come consiglio base? Semplicemente, chi andasse lì deve veramente fare attenzione, deve mangiare solo verdura e frutta cotta, deve lavarsi attentamente le mani. Però ecco, l'ultima notizia positiva è che il numero degli ospitalizzati nei giorni scorsi sta leggermente diminuendo, quindi sia nei giorni del picco che la settimana scorsa sì. c'erano 100 ospitalizzati e più di 100 al giorno, oggi siamo sulla decina e meno, quindi è chiaro che appaiono ancora perché c'è una incubazione di fino a 5, anche 8 giorni, però l'infezione sta scomparendo. 5-8 giorni di incubazione. Intanto io la ringrazio, dottoressa, è stata molto chiara nella spiegarci la situazione. Paola Testori Coggi, buona giornata, il direttore generale della Salute e Consumatori presso la Commissione Europea. Ci fermiamo qui per la pubblicità e il meteo e poi nel nostro sondaggio parliamo della politica italiana su questo fronte dei ministeri al nord, perché la Lega va avanti su questo tema. È stata fatta una proposta di legge popolare, si vorranno raccogliere le firme, ce ne vogliono 50.000 per territorializzare alcuni ministeri. Siete d'accordo? 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Siamo qui, votate su radio24.it tra poco. 24 mattino. Alle 8:33 minuti, allora la Lega con una proposta di legge depositata in Cassazione, una proposta di legge popolare, ci vogliono 50.000 firme, è stato il ministro Calderoli a depositarla, vuole andare avanti su questa questione dei ministeri, lo spostamento, il decentramento al nord, è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Siete d'accordo, vi chiediamo, a questo possibile spostamento, a questa iniziativa della Lega? C'è da dire che il 73% dei nostri ascoltatori dice di no votando su radio24.it, ma ne vogliamo parlare con l'onorevole della Lega e anche sindaco di Cittadella, Massimo Bitonci. Buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come saluto il leader della destra, Francesco Storace. Buongiorno Storace. Buongiorno a lei, Bitonci. E al nostro editorialista del Sole 24 Ore, Salvatore Carrubba, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Salvatore. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, io Bitonci, una prima domanda devo fare molto, molto cattiva, diretta, perché questo un po' emerge dai giornali. Non è che la Lega, che sente un po' il malumore dei suoi elettori, la sconfitta elettorale, la riforma del fisco che non si fa, le tensioni all'interno della maggioranza, insomma, si deve presentare il 19 a Pontida con... qualcuno l'ha definito un feticcio, qualcosa da vendere all'elettorato della Lega, e quindi questa proposta dei ministeri al nord? Beh, Pontida è la manifestazione sicuramente più importante della Lega Nord, dove il segretario solitamente dà la linea politica per il futuro, quindi sicuramente ci saranno delle novità, delle notizie importanti a Pontida. Però questo dello spostamento di alcuni ministeri al nord, diciamo che non è prettamente una novità, perché è da anni che la Lega ne parla. Si parla di alcuni ministeri e comunque un decentramento di alcuni dipartimenti mi pare che sia uno strumento importante attraverso il quale si vuole demolire uno dei mali che c'è sempre stato nel nostro paese, che è il centralismo. Centralismo, quindi la Lega si è sempre battuta contro gli sprechi e il centralismo. Non si può dire certamente che il modello dei ministeri concentrati in un unico posto sia un modello efficiente, anzi insomma il modello romacentrico, diciamo. Però uno, devo dire, vorrei su questo sottoporre già anche Francesco Storace. Oggi legge il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore dà alcuni numeri interessanti, Nicoletta Cottone lo fa a pagina 16, ebbene si scopre, io non lo sapevo, che già il 25% dei ministeriali lavora nel settentrione. Al nord lo fa la parte da Leone, lo fa la Lombardia col 5,9% dei ministeriali, 10.346 ministeriali lavorano in Lombardia, poi in Piemonte 7.000 dipendenti, insomma 25% dei ministeriali già lavorano al nord. Certo, però Storace, Roma è Roma, quindi lei è stato anche ministro alla salute, sarebbe stato disposto a farlo, che ne so, a Milano, a... Ma guardi, infatti quando sono stato ministro c'erano dipendenti del ministero che stavano in tutta Italia, perché mica è detto che tutti quelli che diventano ministero stanno a Roma. Questa è una delle fantasie di questo dibattito. La maggior parte sì, però insomma. No, attenzione, i dipendenti del Ministero della Giustizia stanno tutti quanti altrove, solamente a Roma ci sono quelli del Tribunale di Roma. Vabbè, sì, certo. Però voglio dire, i ministeri, anche con tutto quello che comporta, insomma, di personale. Io credo, molto rispetto per le idee di ciascuno, però vedo due difetti almeno in questa questione che è agitata dalla Lega. Il primo, a me sembra una manovra di carattere propagandistico e basta. Io guido una forza politica che non ha parlamentari, come è noto. Nei prossimi giorni mi recherò in Cassazione per la stessa procedura che hanno seguito loro sui trasferimenti dei ministeri, ma semplicemente per chiedere a nome dei cittadini che firmeranno la nostra legge di voler introdurre il reato di omicidio stradale. È una forza politica che non ha parlamentari, si rivolge al popolo. Guardi, sposa una causa che abbiamo sposato noi 2 giorni fa e che stiamo facendo anche noi. C'è anche un'associazione che si batte, per la quale che stiamo spingendo. Uniremo gli sforzi. Allora voglio dire una cosa. Una forza politica che ha parlamentari, che è forza di governo, non ha bisogno di ricorrere alla raccolta di firme, quindi già vedo un fine propagandistico che è legittimo, però rischia di essere anche inefficace per cose. Qui la seconda questione sulla quale vorrei interpellare Bilonci. La Lega si è avuto un merito in questo paese di quello di aver introdotto la cultura federalista, su questo non c'è dubbio. A me hanno insegnato che il federalismo è il trasferimento dei poteri dallo Stato al territorio, alle regioni come ai comuni. Sì. Qui è il trasloco dei ministeri. È una cosa insomma che c'entra poco. Continuano a comandare i direttori generali dei ministeri. Non governano più gli assessori regionali o comunali. Allora su questo è un punto che non è indifferente rispetto al dibattito del federalismo e non si può mascherare tutto questo con le richieste del nord. Io credo che al nord chiedono più bistecche, più possibilità di lavoro, non più ministeri. Certo. E su questo Salvatore Carrubba, tu avevi già fatto un intervento il 24 maggio del Sole 24 Ore che ho rispolverato abbastanza critico, a dire ma insomma serve davvero questo al nord, in particolare concentrandosi su Milano. Ecco qua c'è l'onorevole Bitonci che dice certo Pontina è un importante momento dove verrà annunciato qualcosa. Qualcuno dice addirittura che Bossi chiederà una reinvestitura al popolo padano. Però, insomma, la questione dei ministeri com'è? Ora c'è una richiesta di legge popolare. Ma naturalmente la Lega ha deciso di seguire questa strada e quindi rispetto, come l'onorevole Storace, questa procedura, il che non mi consente di non essere d'accordo, nel senso che il sindaco onorevole poco fa ha fatto un cenno al centralismo. Allora partiamo proprio da questo. Il sistema centralista francese è un sistema che dal punto di vista dell'amministrazione offre garanzie di rapidità, di trasparenza e di efficienza che noi ci sogniamo. Allora io credo che ai ceti produttivi del nord e al nord in generale non interessi la geografia dell'amministrazione ma la qualità dell'amministrazione. La priorità per tutti i partiti e soprattutto per chi vuole farsi interprete appunto delle esigenze dei ceti produttivi del nord dovrebbe essere non quello di sparpagliare nel territorio uffici statali, ma quello di assicurare che la burocrazia sia efficiente, sia rapida, sia poco costosa e sia trasparente, tutta cosa che non è. E tra l'altro da questo punto di vista la Lega ha qualche responsabilità politica, perché il ministro Calderoli appunto è ministro della semplificazione, non è ministro della raccolta delle firme, quindi insomma potrebbe anche, come dire, presentare un bilancio di quelle che sono state le semplificazioni che ha ottenuto in questi anni. Quindi il centralismo in sé non è un male, ripeto, le piccole aziende del nord firmerebbero per avere il sistema francese, allora non è che interessa avere la sede del Ministero delle Attività Produttive o il Ministero delle Infrastrutture, interessano le infrastrutture, interessa avere i carabinieri che evitino le infiltrazioni mafiose, interessa avere i giudici che facciano i giudizi civili in pochi mesi e non in troppi anni, queste sono le cose che interessano veramente. Quindi e mi pare che questa cosa qui sia un po' un polverone che finirà come finì qualche anno fa, come ricordavo proprio in quell'intervento, la vicenda della RAI, che la Lega e il centrodestra annunciò trionfalmente che RAI 2 si sarebbe trasferita a Milano e sappiamo dov'è RAI 2. Poi c'è anche la questione della Consob, che è un altro grande tema. Però onorevole Bitonci, insomma, lei che della Lega risponda allora a queste accuse, come ha detto anche Storace, come dice il nostro Salvatore Carrubba, l'idea di trasferire i poteri dallo Stato al territorio, questo è il senso del federalismo, ma qui sembra quale voler trasferire i centri di potere, i palazzi. Cioè... Ma lo trovo assolutamente in contrasto con il federalismo, anche se adesso stiamo approvando gli ultimi decreti attuativi del federalismo fiscale, però il passaggio successivo sarà sicuramente quello del federalismo poi istituzionale, quindi con un decentramento. E nel decentramento sul modello per esempio della Germania, dove i 15 ministeri che compongono l'amministrazione centrale del governo tedesco sono divisi e dislocati tra Bonn e Berlino, su base a le disposizioni ancora del 94, cioè questo modello funziona bene. Non si può dire poi in effetti che la centralizzazione dei poteri su Roma abbia creato dei vantaggi per la popolazione, anzi i costi sono lievitati e le polemiche di queste ore del presidente della regione Polverini io le trovo estremamente strumentali, perché si dovrebbe guardare molto di più, un presidente della regione dovrebbe guardare a risolvere quelli che sono i problemi per esempio del disavanzo sanitario della regione Lazio e di altre regioni del sud che consumano quello che è poi il residuo fiscale del nord, perché voglio ricordare chi ci ascolta, chi vive a Roma o chi vive anche in altre zone d'Italia, che il nord produce un residuo fiscale pari a circa 50 miliardi all'anno, che sono 10 volte la manovra economica che abbiamo fatto lo scorso anno. Insomma, qua, quando si parla di questo si dice portiamo qualche ministero al nord, portando i ministeri al nord funzioneranno sempre meglio i ministeri al nord di come funzionano a Roma, dove sono ingolfati, dove è molto difficile. No, ma questa la posizione è chiara, qua Storace, cioè la posizione è chiara, cioè è l'anima della Lega Roma ladrona che sta emergendo, cioè basta, a Roma funzionano male le cose, a Roma si succhiano al sud quello che il nord produce. E questo, guardi, a me fa un po' sorridere, lo dico con grande rispetto, questa tesi per cui il disavanzo sanitario noi lo correggiamo spostando magari il ministro della salute al nord. A me, scusi, lo dico alla romana, mi sembra una frescaccia questa. Insomma, un po' di rispetto per il dibattito, perché se vogliono elevare il dibattito politico con questi argomenti lo portano nel precipizio, ma che c'entrano le due questioni messe insieme? Allora, il tema del disavanzo sanitario, anche io ho fatto il presidente della regione, alla fine si è scoperto che il famoso debito era ventennale. Allora, io voglio restare al tema, sono 100 anni che c'è un divario tra nord e sud in questo paese, non l'abbiamo scoperto dal 94 ad oggi, è un tema grande che riguarda il sistema Italia, per cui c'è stata la discussione prima sulla secessione, poi adesso sul federalismo, ma non si possono mischiare pere e mele su un problema così rilevante. Oggi stiamo parlando del trasferimento dei ministeri, che non c'entra nulla con le questioni riguardanti la gestione delle risorse sul territorio. No, in un sistema complessivo, Bitonci diceva, qua teniamo conto della situazione, cioè il nord produce e il sud consuma. Questo... Allora, se io trasferisco i ministeri al nord, posso continuare a scioccare i soldi al sud, perché tanto gli ho dato i ministeri, ma che vuol dire? Non è che controlla meglio il ministero che sta al nord, a meno che non si voglia dire che il governo ha messo una banda di incapaci al vertice delle amministrazioni. E non credo che sia questa la tesi di Bitonci, o che antropologicamente il milanese sia più attento di quello che ha studiato in università del sud. Io non credo che si possa fare una differenza razziale tra cittadini o tra dirigenti dello Stato. Il tema è come si governa meglio la nazione. Io sono convinto, e su questo la Lega ha introdotto nel dibattito politico questioni rilevanti e importanti, che più il potere si avvicina al territorio, più è diffuso rispetto al controllo popolare, è meglio, più si governa meglio. Andiamo alle informazioni, a sentire le informazioni sul traffico, poi le ripartire qualche ascoltatore. Salvatore Carrubba, dopo, subito dopo. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, eccoci qua, vorrei chiedere Salvatore Carrubba, oggi anche sul Sole 24 Ore si scrive che domani probabilmente in Consiglio dei Ministri tutto questo approderà in un decreto della Presidenza del Consiglio, cioè voglio dire, gli atti formali portano tutti a pensare che la cosa sia molto seria. Però effettivamente l'analisi politica sembra da dire è ciò che la Lega può offrire in questo momento ai propri elettori. È davvero tutta propaganda, come dice Storace, o c'è qualcosa di concreto? Ma io credo che questa venga presa come lo strumento più facile, più semplice, più indolore per dare una risposta a questo malessere dell'elettorato del nord nei confronti del centrodestra che è esploso con il voto amministrativo. Da questo punto di vista aggiungo che a mio modesto parere è un'illusione pensare che l'elettorato del centrodestra del nord si recuperi con questo sistema, perché qui c'è un salto culturale, nel senso che Milano non avrebbe mai pensato di poter avere una soluzione dal centrodestra ai propri problemi diventando una piccola Roma. Questa è proprio una roba incredibile, impressionante, la distanza che dimostra nei confronti di quelle che sono le esigenze vere della gente nel centro-nord. La gente nel centro-nord chiede, ha sempre chiesto, la Lega lo sa benissimo, meno burocrazia, meno tasse e più infrastrutture, questi sono i punti. E adesso aggiungo, c'è un'altra priorità di cui il governo non sta tenendo affatto conto, che è il problema del lavoro, perché le famiglie del nord si chiedono che tipo di futuro e che lavoro avranno i propri figli, questa è la questione. E anche questa è una questione che aggredisce soprattutto il nord, perché nel sud, a Palermo, in Sicilia, come dire, l'incertezza lavorativa è sempre stata una patologia presente, quindi le famiglie in qualche modo sono rassegnate. E nel nord, che una famiglia scopra che un figlio, anche laureato, non riesce a trovare lavoro, beh, queste sono le preoccupazioni, altro che avere qui una sede di un ministero. Ora che il centrodestra, la Lega in particolare, che è sempre stata sensibile a questi temi proprio perché sta sul territorio, non lo capisca, a me lascia molto perplesso. Forse questa è la domanda, forse lo capisce, ma è ciò che può offrire appunto in questo momento di difficoltà politica. È una scorciatoia che poi fa sì che la gente, per esempio, voti a sinistra e non più a destra. Perché? Probabilmente perché la sinistra è ritenuta culturalmente più attrezzata per affrontare proprio questi temi relativi al lavoro, al welfare, eccetera. Magari danno delle risposte sbagliate. Però la gente poi appunto va in una scelta binaria tra il sì e il no, tra il bianco e il nero, come dice questa trasmissione, e sceglie secondo le esigenze del momento. In questo momento le esigenze sono queste, non sono avere una sede staccata di un qualunque ministero a Milano, a Torino, a Genova. Io vorrei sentire che ne pensa un paio di ascoltatori, ci hanno chiamato. Sirio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, a lei e a tutti i suoi ospiti. Dica. Senta, io ho sentito un attimino il dibattito, io volevo dire quello che poi tra l'altro ha anticipato il signor Bitonci, cioè il fatto in chiave, uno Stato in chiave federalista non è poi così tanto fuori dal comune avere dei distaccamenti o dei ministeri dislocati dalla capitale. Ma io ripeto, guardi, perché... che oggi legga il Sole 24 Ore, già il 25% dei dipendenti ministeriali lavorano al nord, cioè per esempio... tutti i dipendenti dei tribunali, per esempio il Ministero della Giustizia. No, certo, ma ad esempio lo dico perché io lavoro a Mediaset, quindi ho la percezione anch'io di quello che la gente in giro dice, eccetera. E quindi? Ad esempio il Ministero del Tesoro e la Consob a Milano, dove c'è una borsa, sembra una soluzione logica. Un Ministero dell'Industria, ad esempio a Torino, dove c'è... siccome c'è l'industria più al nord, mettiamo il Ministero dell'Industria. Si possono anche trovare delle alternative, giustamente, cioè dislocare sul territorio, perché, e qui vorrei un attimino rispondere se è possibile all'altro suo ospite. Non è vero che non c'è il contatto del territorio, perché la Lega mi sembra che è sempre stata, forse assieme alla sinistra, le forze politiche più vicine alla gente e che cerca insomma di andare incontro alle esigenze della gente. Vabbè, insomma, ovviamente comunque, in chiave federalista... La sua posizione è chiara. Mi spiace per Piero da Pavia che non c'è spazio, lo recupereremo un altro giorno, ma vorrei fare una domanda a Bitonci e Storace. Bitonci, Storace dice, non è che antropologicamente lei pensa che funzionino meglio i ministeri al nord, perché cos'è, Roma, Lazzarona, dobbiamo rispolverare questi Bitonci? No, ma è un dato di fatto, però. Ma perché? Abbiamo, cioè, al nord... A Roma non sanno lavorare. Perché, no, ma basta guardare i dati, anche tutte le analisi fatte nel corso dei decreti attuativi del federalismo, studi ne abbiamo fatti a centinaia. Le amministrazioni del nord sono più efficienti, ma non è una questione antropologica, è una questione che la macchina statale funziona meglio al nord. Ma le macchine statali comuni, ci sono degli uomini dietro. Partendo dai comuni, perché non bisogna banalizzare, un comune come il mio, di 20.000 abitanti, che ha circa un centinaio di dipendenti, ritroviamo lo stesso modello al centro e al sud, con il doppio o il triplo di dipendenti, così anche per la provincia e così anche per la regione. E questo sicuramente non si può dire poi che il mio comune sia meno efficiente di uno del sud. Ah, ho capito, ho capito. Cioè si creano delle macchine mastodontiche, poi difficili. Si creeranno comunque dei risparmi e delle sacche di efficienza che possono essere recuperate a livello... Insomma, la traduco così, storace, perché a 20 secondi c'è il clientelismo che al sud porta macchine di assunzioni mastodontiche che poi si rallentano, invece al nord meno dipendenti. Sono frasi fatte che insomma c'è più domanda sociale al sud, è inevitabile, c'è il triplo della disoccupazione, ma di che stiamo parlando? Io vorrei semplicemente dire che secondo me questa storia finisce in una maniera molto facile, finirà per via federalista. Noi oggi presenteremo nel Lazio una proposta di modifica allo statuto, che è norma costituzionale, in cui sarà scritto, oltre a che c'è scritto già Roma è capitale del capoluogo della regione, è sede del governo e dei ministeri. Una volta che sarà passata in Consiglio dei Ministri questa storia finisce. Va bene, io qua mi fermo e staremo a vedere, ringraziando Francesco Storaci, leader della destra, l'onorevole Massimo Bitonci della Lega e Salvatore Carrubba, editorialista del Sole 24 Ore. Ci fermiamo con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Paolo Corleoni in regia. Ma dove è finito l'Alpino? Non si sa, è disperso nelle Dolomiti. No, che è licenziato, no. No, non è licenziato l'Alpino, per carità. Allora la linea va a Oscar Giannino, noi ci troviamo anche su Facebook, la nostra pagina 24 Mattino, e ci troviamo invece in radio domani alle 7:20.